Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 4 maggio 2014, è la 175esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Esistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni. La protagonista della puntata della rubrica Resistiamo Animali non sarà un animale d'allevamento, non riguarderà la fuga disperata da un circo o da una gabbia di detenzione di orsi per l'estrazione della bile. Oggi parliamo della determinazione della volontà di un cane, Birba, di comunicare un desiderio. Tutto ha inizio alcuni anni fa, quando Andrea e Vittoria, pur i nomi di fantasia, decidono di andare a trovare una loro cara amica in montagna. Come di consueto portano con loro gli immancabili amici a quattro zampe e durante una di queste passeggiate appena fuori dal paese si imbattono in una situazione che si percepisce sin da subito non essere delle più rosee per la protagonista di questa storia. Un povero cane, una femmina, infatti legato a una catena davvero molto corta. Il recinto è malmesso e le ciotole sono luride. Vittoria, da sempre appassionata e amante degli animali, tutti, non resiste e chiede al proprietario, che in quel momento si trova nel recinto, se la bestiola così malconcia non senta troppo freddo e se non sia forse troppo magro. Ma per l'uomo è tutto nella norma. Sostiene che il cane è nato lì e che è ben abituato a quelle temperature. Rassegnati, Andrea e Vittoria se ne vanno, ma al ritorno dalla passeggiata, ripassando nei pressi del recinto, succede qualcosa di inaspettato. Birba, con una manovra rapida e quasi automatica, si libera dal collare di cuoio, sfilando il collo e lasciando il collare incastrato nella rete, e li segue abbaiando, nonostante i ripetuti tentativi di farla tornare alla sua cuccia. Da quel momento Birba non si staccherà molto facilmente da loro. Si inserisce nel nuovo branco con una naturalezza incredibile. Le seguirà fino a casa, si piazzerà sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso e, non contenta, farà in modo di farsi aprire la notte e pretenderà di dormire con loro. La mattina seguente, a porte spalancate, Birba non sgattaiolerà fuori come sperato per tornare dal suo padrone. La sensazione che la fuggitiva passerà anche quella giornata con loro diventa certezza in pochi attimi. Si può quasi toccare con mano la sua determinazione, ma Birba ha un proprietario e per scrupolo Vittoria lascia un biglietto nei pressi della recinzione così che l'uomo possa ricontattarli. Prosegue la mattinata e Birba rimane costantemente con loro, cammina proprio come un pastore, perfettamente attaccata alle ginocchia, non scappa mai e al primo richiamo ritorna. Ad Andrea e Vittoria sfiora il pensiero di tenerla. Il cane sembra faccia parte di quel branco da sempre, ma come fare? Hanno già due cani e sei gatti e la convivenza potrebbe essere sempre più complicata. Ma la telefonata del proprietario seda ogni dubbio. Sostiene che Birba non sia scappata, ma che volesse solo giocare o forse aveva sentito degli odori particolari. La coppia pensa che forse l'uomo in fondo teneva molto al cane, era davvero insistente nel rivolerla. Forse la vita di Birba non era così disagiata come pensavano. Dopo angosce e ripensamenti riaccompagnano dunque Birba da dove era scappata il giorno prima e, rassicurati dal proprietario sulle cure che garantirà al proprio cane, se ne vanno. Ma le cose non andranno proprio così. Nei 20 giorni successivi l'amica della coppia, che abita non troppo lontano da quel recinto, controlla tutto quello che accade tramite un binocolo. Birba non viene mai slegata. L'uomo che abita nei pressi del recinto passa un giorno sì e uno no e le lancia pezzi di pane secco e le somministra qualche avanzo della ciotola. Andrea e Vittoria sentono di averla tradita. Birba aveva fatto capire loro in tutti i modi possibili che in quel posto non voleva più stare. Decidono allora di portarla via, non appena le avessero trovato un'adozione. Chi arriva? Si tratta di una donna che possiede un vasto giardino e vorrebbe prendersi cura del cane. Parte così la spedizione Salva Birba, che presenta un'unica incognita. Il cane è un gran chiacchierone, non fa altro che abbaiare, che si tratti di gioia o di paura, ma in qualche modo avrebbero risolto. Forse l'importante ora era portarla via da quel luogo. Così un giorno, verso le 4 del mattino, c'è ancora molta neve, Vittoria e tre amici, tra cui l'amica col binocolo, dopo aver lasciato la macchina a debita distanza, si avvicinano al recinto per prenderla. Birba non fiata, non abbaia. Sembra abbia capito la situazione e decide di collaborare. Birba li segue senza troppe esitazioni. Via, si parte per una nuova casa, calda e accogliente. Ma trascorrono solo 2 giorni e la signora richiama Vittoria. Non può più tenere quel cane, è rumoroso, abbaia continuamente, ha paura di qualsiasi cosa, è ingestibile, chiede di andarsela a riprendere. Ma cos'è successo a quel cane così obbediente e silenzioso? La sua casa lei l'aveva già trovata, era con Andrea e Vittoria, come aveva deciso sin dall'inizio. Birba è un cane selvaggio ed è rimasto selvaggio, non sa andare al guinzaglio e ha tuttora terrore del traffico. Ma quando Vittoria e la fuggitiva camminano nei prati e nei boschi, da 5 anni continua a camminare attaccata al ginocchio e guarda ogni suo sguardo, salvo partire ogni tanto per delle corse sfrenate inseguendo il suo gregge immaginario. Racconto volentieri la storia di Birba perché mi riguarda anche direttamente, visto che Birba vive con me ora e diciamo, ho vissuto con lei la sua evasione, la sua fuga, la sua voglia di libertà. E tra l'altro pensiamo raramente ai cani e ai gatti come animali a volte in cerca di una via di scampo, di una vita diversa, perché ci immaginiamo che siano animali fortunati, che stanno bene dove sono, e ci dimentichiamo sia dei casi più eclatanti anche di maltrattamento riguardo a questi animali cosiddetti d'affezione, che sono i cani dei cacciatori tenuti magari in serragli piccoli e sporchi per mesi di fila quando la caccia è chiusa, o pensiamo ai cani tenuti alla catena, cani da guardia che sono spessissimo detenuti in modo ignobile nelle nostre campagne, in montagna, ma anche in alcune città, e che fanno una vita veramente terribile, piena di privazioni. Pensiamo anche, senza andare a questi casi di maltrattamento vero e proprio, anche alla noia e alla vita veramente ripetitiva che va contro i loro bisogni più profondi, dei cani tenuti anche solo segregati nei giardini delle nostre case, cani che magari non escono mai neanche per una passeggiata, animali che vivono di odori, di relazioni, che sono costretti a passare la loro esistenza in un unico spazio, sempre quello, alla noia che provano anche tutti i giorni della loro vita. Quindi questa storia forse esce un po' da quelle che sono le solite storie raccolte nel sito di Resistenza Animale, però non perché riguarda un cane è una storia meno importante o meno significativa. Birba è un cane che dal primo momento in cui l'abbiamo conosciuto ha mostrato una determinazione e una volontà incredibili. Lei si è liberata quando ci ha visto passare, ma probabilmente aveva già sperimentato la possibilità di fuggire, perché questo agganciarsi il collare a uno spuntone nella rete e sfilarsi, o proprio le è successo per caso, ma temo che il caso qui c'entri veramente poco, oppure era qualcosa che lei metteva ogni tanto in atto nella speranza di riuscirci e quella volta ha funzionato. È riuscita a lasciare il collare agganciato alla rete e ci ha seguito. Nonostante i nostri tentativi di farla tornare indietro, perché noi non volevamo un altro cane, non stavamo per niente pensando a lei in quel momento, e lei ostinatamente ci ha seguito a una certa distanza all'inizio, poi sempre più vicina, fino a casa. Le abbiamo dato da mangiare, l'abbiamo chiusa fuori pensando che magari ci avesse seguito solo perché aveva fame, aveva bisogno di qualcosa di pratico, e invece dopo un po' di tempo, quando abbiamo aperto la porta di casa, e in quel periodo dell'anno in montagna c'erano quasi meno 10 gradi, lei era ancora lì sullo zerbino ad aspettarci, e a quel punto ovviamente non abbiamo più avuto cuore di lasciarla fuori ed è entrata in casa. Non era abituata a una casa perché era spaventata anche dai rumori domestici più banali. Ci ha seguito poi tutto il giorno successivo, siamo andati in passeggiata assieme ed è stata una giornata in cui lei era molto felice, sembrava il nostro cane da sempre. E quando poi è stata riportata dove era detenuta, lei probabilmente ha vissuto questo abbandono in maniera molto grave. Quando però siamo tornati dopo circa un mese per riprenderla, il modo in cui lei ha reagito è stato sorprendente. Io veramente, se non fosse successo a me, stenterei a crederci. Cioè, Birba, che è un cane a tutt'oggi rumorosissimo, Birba abbaia per ogni piccolo rumore, per ogni suono improvviso, per ogni emozione che ha, quella notte è stata proprio partecipe della sua liberazione. Ci ha seguito senza fiatare, non ha fatto un guaito, non ha uggiulato quando ci ha riconosciuto. Eravamo a pochissimi metri dall'abitazione del proprietario e lei sembrava che, anzi sono sicura, che avesse completamente compreso la situazione, sapeva che eravamo venuti lì per lei, ha collaborato alla sua fuga nel modo più attivo, più partecipe che poteva avere. E quindi lì per me è stato importantissimo il messaggio che ho proprio percepito potente, cioè Birba aspettava quel momento, quando ha capito che sarebbe venuta con noi ha collaborato e ha partecipato come se fosse una di noi al progetto, diciamo, di fuga. Questa cosa mi ha poi aperto un mondo sulla volontà che gli animali hanno di risolvere anche i loro problemi. Now this was a special request to all the people in Midtown Town in Sweet. Tell about it. You know, tell them where it born. Say that a Midtown or something you pay it, Lord. Say that a Midtown or something you pay it, tell them. Say that a Midtown or something you pay it, God. Say that. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Me my chance a little meat, meat a meat and a something you fi eat. I miss a meat and a something you fi eat. Oggi vogliamo parlarvi del fenomeno vegan. Spuntano paninerie, creperie, ristoranti vegani, come stiamo anche documentando nel corso delle nostre puntate. Ormai la presenza di menù vegani e vegetariani nei listini di trattorie e ristoranti sta diventando la regola e non è più l'eccezione. Si riesce addirittura a mangiare un panino vegano, per i vegetariani c'era già il classico caprese, perfino nei punti di ristoro di autostrade e ferrovie, che peraltro restano, quanto a qualità del cibo, da rimandare a settembre, come si diceva una volta. Se poi si pensa che anche nei supermercati cominciano ad apparire sezioni riservate ai prodotti vegan, ecco che l'esperienza di ciascuno di noi conduce ad affermare che la scelta alimentare vegana, e a maggior ragione quella vegetariana, sono in rapida crescita. Ma è solo un'impressione o ciò che è frutto dell'esperienza trova conforto nelle statistiche e nelle analisi sui comportamenti dei nostri concittadini? È davvero difficile a dirsi, visto che i dati sono assai contraddittori. Sembra ad esempio che il numero complessivo di vegetariani e vegani sia aumentato in modo piuttosto vistoso nell'ultimo anno, ma per merito dei primi, i vegetariani, e non dei secondi, i vegani, visto che questi ultimi sarebbero in calo. Se davvero fosse così, le recenti e prossime aperture a Firenze di locali vegan sarebbe in qualche modo in controtendenza. A dir la verità, si fa un po' fatica a crederci, specie se si considera che il numero dei vegetariani è invece in aumento. Per capirci qualcosa in più, bisogna andare a vedere quali sono le fonti dei dati e fare un piccolo approfondimento. Diciamo subito che analisi specifiche sulle scelte alimentari su base etica degli italiani in realtà non ne esistono e sono probabilmente anche assai difficili da condurre, oltre che costose. Quando si domanda quanti siano vegetariani e vegani in Italia, le risposte reperibili via Google rimandano immancabilmente ai rapporti della Società di Rilevazioni Sociali Eurispes. Ed è alle serie storiche dei rapporti Eurispes che normalmente si fa riferimento per valutare qual è la tendenza in atto. Eurispes infatti pubblica ogni anno un rapporto sull'Italia, frutto di un questionario molto ricco di domande sottoposto a un campione della popolazione italiana. Le domande riguardano gli ambiti più diversi, dalla politica all'economia, al lavoro, dalla finanza alla salute e così via. È lo sforzo che compie Eurispes per cogliere le dinamiche in corso. Ma non è lecito attendersi un'attendibilità statistica effettiva per comportamenti sfuggenti come sono quelli alimentari. Secondo il rapporto 2014, dicevamo, i vegetariani sono aumentati sensibilmente rispetto al 2013, dal 4,9 al 6,5% della popolazione. Sarebbero quindi attualmente circa 3 milioni 900 mila persone, se applichiamo la percentuale a una popolazione stimata di 60 milioni. I vegani, stimati nel 2013 all'1,1%, sarebbero ora quasi dimezzati, fino allo 0,6. In termini assoluti sarebbero passati in 12 mesi da 660.000 a 360.000. Ma si può davvero pensare che così tante persone abbiano avuto un ripensamento così grande in così poco tempo? Allora, magari è vero che la scelta vegana comporta troppi sacrifici, o forse è una moda, e come tutte le mode è labile, passeggera. Ma se così fosse, come abbiamo detto all'inizio, ci aspetteremmo un incremento e non una flessione così vistosa. Una possibile spiegazione di tanta fluttuazione può essere ricercata spingendo un po' più indietro la ricerca, sempre all'interno dei rapporti Italia dell'Eurispes. Con riferimento ai vegani, si scopre che nel 2011 la stima era dello 0,4%, nel 2012 un tracollo, ai limiti della scomparsa, appena lo 0,1%. Nel 2013 c'è stata una rinascita improvvisa con un dato di incremento strabiliante fino all'1,1%. E quest'anno, come detto, il nuovo ridimensionamento fino a scendere allo 0,6. Ma davvero la scelta vegan nella popolazione italiana è così simile a una corsa sulle montagne russe? Naturalmente non possiamo escluderlo finché non disporremo di dati più specifici, frutto cioè di una ricerca ad hoc sulle scelte etiche ed alimentari. E forse sta proprio qui la chiave. Eurispes compie la sua indagine attraverso un questionario e non sappiamo bene come chi li compila interpreti il quesito, se la differenza fra vegani e vegetariani sia davvero compresa, se la scelta vegan o vegetariana sia intesa come comportamento costante oppure occasionale. Oscillazioni così forti fanno pensare che le stime abbiano bisogno di tempo e di indagini specifiche prima di assestarsi. Per il momento tocca tenersi le cifre del rapporto Eurispes, con l'aumento dei vegetariani e la flessione dei vegani. Ma almeno diciamo che rispetto al 2011, cioè al rapporto più vecchio fra quelli che abbiamo citato, i vegani sono passati dallo 0,4 allo 0,6% e i vegetariani, fra parentesi, dal 6,3 al 6,5. Ecco, così le cifre stridono di meno e la tendenza è più vicina alle nostre aspettative. Possiamo dire che stiamo crescendo. Because she recognized me as her executioner. You will notice that I have also answered when. Part 3. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. No. Yet, I am giving you this report as a matter of principle. Mr. Lazarus, the French vice consul, had delivered me a visa and cable advice from Dakar. Hartmut Kievert è un artista tedesco nato nel 1980 che vive e lavora in Germania nella città di Bitzenhausen e che vende i suoi quadri anche attraverso la rete. Navigando nel suo sito internet, disponibile in lingua inglese, scopriamo un artista molto affine al nostro punto di vista animalista, antispecista e vegan. L'opera di Hartmut Kievert infatti è tutta ispirata alla questione animale, non solo è ad essa dedicata, ma gandhianamente è anche coerentemente cruelty free negli stessi strumenti di lavoro dell'artista, che infatti dedica uno spazio nel suo sito internet alla denuncia della presenza di prodotti di origine animale in tanti pennelli, colle, emulsioni e pigmenti. I dipinti di Hartmut Kievert, come lui stesso ci spiega, sono un tentativo di sovvertire il blocco della coscienza collettiva e individuale nei confronti dello sfruttamento degli animali. La censura e la repressione attuate nei confronti della miserabile vita e della morte degli altri animali viene, secondo l'artista, in qualche modo neutralizzata dai suoi quadri, che diventano luoghi di racconto, di testimonianza, di denuncia, di cordoglio e di memoria, grazie ai vividi colori con i quali viene raffigurata la carne degli animali offesi, la loro cruda esistenza, la loro morte angosciante e solitaria, ma anche, perché non si deve pensare che l'autore sia monoliticamente realista, grazie ai quadri che rappresentano le colorate prospettive utopiche dell'artista su un mondo postmoderno che ha superato la violenza verso gli altri animali. Su alcune di queste opere ci soffermeremo, scegliendo quelle che ci sembrano più significative. Il primo dipinto sul quale mi vorrei soffermare si intitola All'aperto, Im Freien, e ritrae un gruppo di maiali di varie età, stazza e colore del mantello che in primo piano sta attraversando un marciapiede in mattoni, mentre a pochi passi un gruppo di persone stanno facendo un classico picnic nel parco con tanto di ghiacciaia in plastica azzurra. Il gruppo umano non sembra minimamente turbato dalla presenza del gruppo di suini. I volti sono molto sereni. Sullo sfondo una donna è curva su un cespuglio, citando forse il rinnovato interesse verso la raccolta dei frutti spontanei. Un uomo barbuto tende il braccio verso la ragazza, offrendole una mela. Questa sembra una doppia citazione. Da una parte il celebre dipinto di Claude Monet, Le Déjeuner sur l'herbe, e dall'altra l'Antico Testamento, con un interessante rovesciamento di ruoli, a proposito della mela, che può lasciare intendere molte cose. Il superamento del patriarcato, la divisione in generi maschio-femmina, ma anche la riscrittura della storia dell'umanità a partire da uno dei suoi testi fondativi. Altro dipinto particolarmente interessante si intitola Autunno. L'oggetto del dipinto è un bosco di alberi con fusti altissimi e spogli, e il fondale ricoperto da foglie con i tipici colori caldi autunnali. Tra gli alberi si nota una famiglia di suini che grufola serenamente davanti al rottame di un camion capovolto. Si tratta di uno di quei camion tipicamente utilizzati per il trasporto di animali d'allevamento, che sembra essere stato inglobato tempo prima dalla foresta, letteralmente infilzato dai fusti degli alberi, nati evidentemente sotto di esso e nonostante la sua presenza, mostrando quindi una forza vitale superiore a quella delle lamiere contorte. Guardando meglio, ci si accorge che i suini, liberi di grufolare nei paraggi del camion, sono di due tipi. Alcuni hanno le setole scure e sembrano dei cinghiali selvatici, mentre altri sono rosa e fanno pensare a un mescolamento, probabilmente avvenuto dopo la distruzione del camion, tra gli animali liberi e quella che potrebbe essere l'ultima generazione di animali che hanno conosciuto la cattività. L'autunno rappresenta forse la decadenza della società carnista, con il conseguente riscatto, sereno e non vendicativo, delle altre forme di vita. Chiudiamo questa breve carrellata descrivendo un altro quadro, Evolution of Revolution, un quadro poderoso anche nelle dimensioni, 180 cm x 225, che aggiorna i totem della Rivoluzione francese, cui era dedicato il celebre quadro La libertà che guida il popolo, realizzato nel 1830 da Eugène Delacroix. Coerentemente con il quadro di Delacroix, la struttura è piramidale e fortemente allegorica, ma in primo piano, al posto dei caduti, lo spazio è occupato dagli animali maggiormente sfruttati, quindi un'oca, un visone, un maiale, un coniglio, una mucca, un tacchino, una gallina, un agnello, una capra e tanti pulcini, ai quali viene restituito un futuro, un avvenire, verso il quale avanzano senza però enfasi, se non per l'oca, che invece dispiega le sue ali. Dietro di loro irrompono i combattenti. La donna è la stessa Delacroix, quindi è l'allegoria della libertà, mezza dea e mezza popolana, con una veste stracciata, e ha la classica posa esortatrice monumentale e impetuosa, come nel quadro, come nel famoso quadro dell'autore francese. Il suo braccio destro è alzato, però non brandisce una bandiera nazionalista, bensì uno strumento molto umile, un paio di tenaglie. Come non pensare alle liberazioni della che ci sembrano una citazione del movimento di liberazione animale, l'Animal Liberation Front. Accanto a lei c'è il ragazzo, il monello che rappresenta il coraggio. Anche lui, al posto delle due pistole del quadro di Delacroix, in questa rivisitazione brandisce tenaglia e martello, che sono strumenti umili, operai, di questa nuova, ma non meno rivoluzionaria liberazione, ritenuta dall'autore una rivoluzione voluta, cosa che noi condividiamo. Sullo sfondo poi non c'è Notre Dame. I protagonisti di questo quadro, ai quali è stato impresso un movimento che sembra quasi portarli fuori dalla tela, avanzano tra quel che resta di un muro crollato e di un reticolato, evidentemente strappato dalla forza delle tenaglie. Alla pagina news del sito internet di Harmut Kievert, nella parte destra dello schermo, un contatore si attiva e vi comunica in tempo reale quanti animali sono stati macellati da quando vi siete collegati. Il dato è basato sulle statistiche del 2003 della FAO. Oggi il dato sarebbe sicuramente più alto. Ciò non di meno, veder correre quei numeri è impressionante. Non meno impressionante dei quadri di Harmut Kievert. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Lo scorso 23 aprile è stata inaugurata a Firenze la prima paninoteca vegana, biologica e gluten free. Si chiama Panino Vegano e si trova in via Bufalini numero 19 e 21 Rosso, poco dopo l'ospedale di Santa Maria Nuova. La redazione di Restiamo Animali non si è persa questo evento, che peraltro ha avuto un robusto successo di pubblico, forse anche grazie al fatto che si poteva mangiare e bere bene e gratis a volontà. Il pubblico era molto diversificato, fatto da persone animaliste già vegane, ma anche da curiosi di tutti i generi e di tutte le età. Una ragazza suonava la chitarra e cantava, naturalmente, tutti i pezzi di musicisti vegani. Chiedo a Cinzia Re di raccontarci in che cosa consisterà la proposta di panino vegano. Parte dalla più semplice, che è il panino a 5 euro, dove ci sarà un burger, due tipi di verdure e una salsa. Dei burger di vari tipi, oppure lo facciamo col tofu affumicato, oppure col tempeh, comunque tutti prodotti naturalmente vegan e senza glutine. Poi si può scegliere anche di prendere un panino più contorno, e quello vedrà 7,90 euro, o se no panino contorno e dolce a 9,90 euro. L'acqua naturale alcalina la regaliamo noi a chi mangia qui da noi, visto tutta l'acqua che risparmiamo non mangiando animali, la offriamo ai nostri clienti. Poi avremo dei contorni, si può scegliere di mangiare con un piatto crudo e sarà fatto con zucchine, può essere uno spaghetto di zucchine o di altro. I dolci saranno torta di mele all'inizio per partire, ci saranno dei muffin, una torta al cioccolato e lampone, e poi piano piano ampleremo con delle torte al cocco, comunque tutte senza glutine e tutte vegan. Com'è quello che stai assaggiando? Buono, ho cominciato nel primo. Cosa hai mangiato? Penso a un involtino di cavolo con il riso. Sei già vegana o sei venuta per curiosità? Per curiosità. E come ti è sembrato questo primo assaggio? Mi ci devo abituare. E te, hai gradito? Sì, buono. Che cosa ti è piaciuto di più? Ma tutto in generale, buono. È un riso senza uova, è fortissima. Può sostituire la maionese con le uova? Certamente. La faresti? Ne hai voglia! Se assaggiamo non ci piace. Sapori troppo diversi? Sì. Sono con Cinzia Re, che è l'ideatrice di questo nuovo progetto imprenditoriale etico panino vegano in via Bufalini 19-21 Rosso, e le chiedo da dove nasce questo progetto. Per me è un campo completamente nuovo, diciamo, perché io vengo dal settore della musica, sono una cantante. L'idea è venuta fuori quest'estate perché cercavo dei posti etici, non violenti, per poter mangiare e non trovavo quasi niente in Firenze, ma anche in altre parti d'Italia dove sono stata. Così ho detto, lo faccio io. Ho messo tutta me stessa, sono partita a dispetto di cosa si può dire, assolutamente senza niente, ma con convinzione e caparbietà. Veramente a livello economico io sono partita con 800 euro in banca. No, come? È incredibile, non sì. Non ci possiamo sì, credere. Sì, sì, veramente. Pensavamo veramente che tu fossi una ricca ereditiera. Assolutamente, assolutamente. Mi ha aiutato una zia che ha venduto un appartamento, mi ha dato una mano e poi ho chiesto dei soldi alla banca per realizzare questa cosa, per cui sono una persona normale come tutti. Quindi si può fare, se ci si crede profondamente si può fare. Sì, ci vuole determinazione, bisogna credere veramente nei propri progetti e nel cambiare il mondo. So tra l'altro che sei partita alla grande, perché oltre alla paninoteca Panino Vegan in via Bufalini aprirai anche un ristorante, si può già dire? Sì, lo possiamo già dire, il ristorante si chiamerà Bio Veggie e avrà la stessa formula della panineria e lo troveremo in via Erbosa a partire da maggio, non so ancora dire esattamente la data. Quello sarà un ristorante, però sempre con prezzi veramente accessibili, non voglio che siano prezzi proibitivi, la missione è permettere a tutti di poter mangiare vegan. L'accesso al cruelty free, al non violento. Senti Cinzia, un giorno, presumo della tua vita, si è successo qualcosa e hai cominciato a guardare gli animali in un altro modo. Tramite dei video, mi sono sensibilizzata, poi ho letto un libro dei China Study, poi sono andata avanti a cercare cosa c'era, diciamo, oltre al fattore della salute, abolire la sofferenza degli animali, perché sono esseri senzienti come noi, in grado di provare dolore. Questo tuo risveglio è anche abbastanza recente. Sì, io sono una nuova vegana. Com'era questo panino vegano? Buono, era molto buono. Anche le verdure erano buone, ottimo. Buono tutto, davvero. Ma tu sei abituato a mangiare vegano o è la prima volta? No, è la prima volta, però mi sono trovato molto bene. Ho mangiato tutto e di tutto. Sto mangiando ancora, è buono, infatti. buono. Quanti anni hai? Ne ho 12. Come ti chiami? Lorenzo. Grazie Lorenzo. Naturalmente tutto vegetale e tutto senza glutine. Si può vivere, si vive anche molto bene alimentandosi in maniera solo vegetale. E senza glutine, naturalmente tutto accompagnato dal biologico e possibilmente a filiera corta, sempre. Quindi un locale democratico, inclusivo e non conflittuale, perché i vostri menù vanno potenzialmente bene per tutte le religioni, per tutti i credo e per tutte le allergie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Un locale veramente democratico e non violento. Quale sarà il vostro orario di apertura? Tutti i giorni, dalle 9 la mattina alle 9 la sera, e venerdì e sabato apriamo fino alla mezzanotte. Com'è questo dolce vegano? Non l'ho assaggiato ancora. Chi l'ha assaggiato? E com'è? Buonissimo. Ma tu sei già vegana o sei qui solo per curiosità? Per curiosità, ma certe volte mangio molto spesso insalate a casa. E i dolci vegani ti è capitato di mangiarli prima? No. E a te ti sta piacendo? Sì. Come vi chiamate? E io Eleonora. E io Alessandra. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues. Anche il Valdarno quest'anno avrà la sua kermesse vegan, Montevarchi Ethic Street, un evento gemellato con il Vegan Fest, il più grande evento vegan indoor d'Europa. Sabato 10 e domenica 11 maggio 2014, in pieno centro storico a Montevarchi, provincia di Arezzo, un'intera via si tingerà di verde per il Montevarchi Ethic Street, un evento dedicato all'etica e al mondo vegan, con associazioni ed enti no profit, onlus, prodotti di enogastronomia vegana, ecoartigianato, street art, spazi musicali, conferenze con ospiti nutrizionisti, scrittori, autorità della cultura, del mondo della scienza e della scuola. Tanti sono gli ospiti a noi già noti. Oltre a Red Kanzian, cantante dei Pooh, ci sarà Sonny Richichi, presidente dell'Italian Horse Protection, il pediatra Leonardo Pinelli, ospite della primissima puntata di Restiamo Animali, e poi veri e propri pezzi della nostra redazione presente e passata, il professor Luigi Lombardi Vallauri, il nostro caporedattore Lorenzo Guadagnucci e il cuoco tibetano Giuseppe Coco, la cui voce, profumata al cumino, resta un'icona della nostra storia. Questi gli orari: sabato 10 maggio dalle ore 10 alle ore 24 e domenica 11 maggio dalle 9 alle 21.